Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, alcuni sono chiaramente in divenire. Dalle 18 in poi dovremo capire se il governo metterà la fiducia sul Jobs Act e se dovesse fare così è immaginabile che aumenteranno le tensioni con la minoranza del PD. Domani mattina invece è confermato l'incontro alle 8 tra governo e sindacati e Confindustria. Il tema in questo caso è il TFR, come avete letto su molti giornali il governo non ha frenato, ha detto che non vuole farlo contro le imprese e diciamo vuole trovare la massima condivisione possibile, confermato anche dal ministro Alfano che comunque sarà sempre su base volontaria. Devo dire che su questo ci sono stati pochi dubbi, ma fummo facili profeti nel prevedere la settimana scorsa che se tu annunci un provvedimento sul TFR non specifichi come, quando, dove, con che modalità, con che compensazioni tra virgolette, visto il vuoto economico che vai a creare, è chiaro che poi rischi di essere attaccato senza diciamo un testo da difendere. Così è avvenuto, ma bene che domani vi sia un incontro con le parti sociali, non tanto perché i tavoli di concertazione siano sempre utili, quanto perché una cosa che va a toccare la busta paga del lavoratore e la liquidità delle aziende deve anche quantomeno includere la posizione dei sindacati da questo punto di vista di Confindustria. Poi giustamente il governo fa quello che vuole, ma ascoltare anche le problematiche, altrimenti tu spari sul TFR e poi non ti rendi conto che c'è un problema sulla previdenza integrativa, che c'è un problema sulla liquidità delle aziende, che c'è un problema anche relativamente al fatto di quanta parte vorresti consegnare, immagino tutta la parte da maturare non quella maturata. Insomma, si apre uno scenario, anche perché è giusto dire che il TFR, il trattamento di fine rapporto, sono soldi dei lavoratori e non dello Stato, però è lo stesso Stato che li usa per l'INPS e per la previdenza integrativa, e le imprese in questi anni hanno attinto soprattutto le piccole e medie, per quello è il problema, per, usiamo un termine, per il circolante, per la cassa, quella di pronto utilizzo. E beh, questo va detto, dopodiché si possono trovare delle forme compensative, ma va bene esplicitato il meccanismo. Detto ciò, avremo oggi, continua il nostro viaggio nelle imprese che aumentano il fatturato, nei settori produttivi che comunque tengono botta e nelle imprese che investono in Italia. Lo avete forse letto nel giornale nel fine settimana. Dopo, noi abbiamo avuto ospite ad agosto, fine luglio, inizio agosto, l'amministratore legato di Philip Morris Italia, che ha annunciato l'investimento da 500 milioni, poi 500 più 500 in realtà, a Bologna per quello che riguarda la produzione di sigarette elettroniche soprattutto, un investimento importante. Nel fine settimana è arrivata la notizia che la concorrente, diciamo, di Philip Morris, BAT, British American Tobacco, investirà in Italia 1 miliardo di euro e 300 nuovi posti di lavoro. Voi direte 300 posti sono pochi? Sì, sono meglio che niente. Comunque, quando un investimento di 1 miliardo si sceglie il nostro paese, anche perché è concentrato sull'acquisto presso aziende italiane di macchinari specializzati nel trattamento del tabacco, del packaging, sono 650 milioni per i gruppi dell'Emilia Romagna, dell'Umbria, del Veneto, e 300 milioni invece serviranno di comunicazione. Verrà sostenuta anche la filiera del tabacco e questo dovrebbe favorire la regione Campania. Poi c'è chi mi scrive: ma il tabacco è lo sterco del diavolo, va bene, allora dichiariamolo illegale, non tassiamolo più e non accettiamo neanche gli investimenti produttivi. Se invece lo si considera un investimento come altri, dannoso, perché il tabacco è dannoso, come altre cose non fanno bene, e non voglio tornare sulla polemica su come viene trattato il tabacco rispetto a altri prodotti, faccio solo notare che mi sembra che tra i giovani il problema più grosso non siano solo le sigarette, ma sia il modo in cui affrontano e si approcciano all'alcol, per cui su questo io non ho notato grandi campagne. Detto ciò, se invece lo si considera un settore produttivo è giusto parlarne. Ancora, per quello che riguarda la giornata, la borsa oggi è piatta, piattissima a Milano, -0,1, ma piatta anche a Francoforte, +0,1, a Parigi +0,20, Londra +0,45, l'America +0,18, va bene CNH Industrial +4, Moncler +3,30, Ferragamo più 2,60, Jux più 1,70, Pop Milano più 1,40 come Tod's. L'1% la guadagna la Popolare Emilia Romagna e A2A. Va male World Duty Free meno 2%, Unipolsai meno 1,70, Telecom meno 1,1 come Enel. L'1% lo perde Snam ed Eni. Lo 0,70 è calo di Prismian e di Tenaris. L'euro è sotto quota 1,26 a 1,2570 e speriamo che continui in questa direzione. Giustamente alcuni ascoltatori hanno scritto nella settimana scorsa, ma non è che un euro debole poi diventi uno svantaggio per noi che importiamo energia? Sì, però faccio notare che il prezzo del petrolio, adesso vedremo se vi saranno ricadute dalle tensioni medio orientali, Iraq soprattutto, però il prezzo del petrolio resta anche oggi a New York a $89 al barile, quindi stabile. Allora è chiaro che siccome tu hai un 30% del prezzo finale della benzina che è dovuto al prezzo del petrolio, lo paghi in dollari, in realtà da quello che vediamo è più vantaggioso l'effetto che ha sull'export un euro a 1,25 che l'effetto che ha sul petrolio importare con un dollaro più forte. Perché? Perché le quotazioni sono ancora abbastanza accettabili, $89-90 al barile. E poi nella seconda ora vedremo di capire intanto se il governo ha messo la fiducia sul Jobs Act e che cosa potrebbe uscire in queste 2-3 giorni. È chiaro che il governo vuole accelerare per presentarsi poi a Bruxelles con una riforma del mercato del lavoro non certo approvata ma almeno delineata anche nei punti che riguardano l'articolo 18 e il TFR. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, al di là delle notizie, tra l'altro, visto che parlavamo di petrolio, oggi c'è stata la 13ª edizione della World Oil and Gas Review, che è ogni anno, diciamo, la rassegna statistica sul mercato mondiale del petrolio, del gas e anche sul sistema di raffinazione che viene presentato ogni anno dall'ENI. Da lì emerge che gli Stati Uniti detengono il primato per la crescita produttiva di greggio, questo è il tight oil, shale gas, più 12%, che compensa il calo di Iran e Libia. L'Iran ha fatto meno 10%, la Libia meno 35%. Come va la domanda? La domanda è leggermente positiva per la prima volta dal 2008 anche nei paesi OCSE. Resta una crisi dei consumi, per cui anche la domanda dei paesi europei, per esempio, ha fatto meno 0,7% la domanda di petrolio rispetto all'anno prima. La Cina si mantiene al secondo posto al mondo per consumo di petrolio e le riserve sono comunque salite, una lieve crescita grazie all'apporto dei paesi non OPEC, cioè Stati Uniti più 9,8% e Norvegia più 8,6%. Veniamo all'Europa. Dalla Francia arriva la notizia che Euro Disney, la società che gestisce il parco appunto di Disneyland Paris, ha annunciato un piano di ricapitalizzazione da 1 miliardo di euro che sarà tutto gestito e garantito dalla controllante americana, la Walt Disney Company. Tra l'altro in questo modo dovrebbe migliorare la sua situazione di cassa per 250 milioni di euro. Che cosa è successo? Allora, nei primi 6 mesi dell'anno 2013-2014 Euro Disney ha aumentato le perdite nette del 16%, sono calati i visitatori del 6% e già lo scorso anno aveva perso 1 milione di visitatori. Buona notizia della Grecia, che dopo 6 anni di recessione prevede una crescita l'anno prossimo del 2,9%. In realtà il vice ministro delle finanze ha previsto e ha ribadito, ha confermato anche per quest'anno un aumento del PIL dello 0,6%. Le scaramucce tra Germania e Banca Centrale Europea continuano e allora il portavoce del ministro delle finanze Schäuble dice: non commentiamo le decisioni della Banca Centrale Europea, aspetteremo sugli ABS, sugli Asset Backed Securities, quindi crediti di buona qualità che le banche europee possono conferire alla BCE e incassare subito. Berlino ribadisce di non essere favorevole a un uso dei fondi ESM, quelli per la stabilità, i cosiddetti fondi per il meccanismo di stabilità, per favorire la crescita dell'area euro. E però dalla Germania, attenzione, perché arrivano gli ordinativi industriali, sono calati ad agosto del 5,7%, è il ribasso più marcato dal 2009. Le attese degli economisti erano di un dato negativo, ma della metà, meno 2,5%. E infatti i tre istituti principali di statistica, l'italiano Istat, il tedesco IFO e il francese ISEE, dicono congiuntamente che la ripresa dell'area euro, sarà modesta nella seconda parte dell'anno e ci si attende una marginale crescita nei primi mesi del 2015, trainata principalmente da Spagna e Germania. Lo spread è stabile a 137 punti, il rendimento dei nostri BTP a 10 anni è in calo al 2,28%. Veniamo all'Italia, che è il paese con il più alto numero di lavoratori scoraggiati di tutta Europa e con il tasso di attività più basso, e questo è l'ultimo rapporto della Commissione europea, ma c'è anche un record di differenze regionali nel lavoro, per cui hai dei dati al nord dove la disoccupazione viaggia tra il 6 e il 7% e invece al sud dove viaggi a dati di disoccupazione giovanile che sono anche oltre il 50%. Pensate che la Campania è maglia nera sul fronte del lavoro, si posiziona nella parte dell'1% peggiore di tutti i paesi OCSE, mentre Bolzano è al top e si posiziona nella parte alta della classifica tra il 15% dei paesi migliori, delle regioni migliori, scusate. TFR, vedo già molti messaggi, allora ascoltiamo cosa ha detto oggi il ministro dell'interno Angelino Alfano a margine di una conferenza stampa, in realtà parla appunto soprattutto come segretario dell'NCD, e poi ascolteremo anche Susanna Camusso. Alfano sul TFR. TFR, mi pare che già ci sia un punto importante già chiarito, e cioè che qualora si dovesse procedere, si procederebbe su base volontaria. Così Alfano. La Camusso invece, che domani mattina incontrerà Renzi, però insiste nel paragonare Renzi alla Thatcher, e poi dice: attenzione, siamo a metà del semestre italiano e ancora non c'è stato un accenno di dialogo sociale da parte del Presidente del Consiglio. Nonostante i solleciti, le richieste, le iniziative del sindacato italiano, del sindacato della Confederazione Europea dei Sindacati, ma immaginiamo anche i solleciti delle singole federazioni nazionali dopo le interlocuzioni che ci sono state tra di noi e anche a Copenaghen, non vi è stato nessun cenno di dialogo sociale da parte della presidenza del semestre europeo. Siamo ormai alla metà del semestre di presidenza italiana e non c'è stata nessuna occasione per discutere di quale agenda, di quali priorità, in riferimento in particolare all'occupazione e al lavoro. Abbiamo ripercorso con la memoria i precedenti semestri ed è questa modalità una modalità che si era vista in Europa una sola volta, ma non a caso la si vide quando era in corso quella grande discussione su quale doveva essere il futuro di un'Europa e dei primi segni del liberismo. Il precedente unico infatti che abbiamo di non dialogo sociale in Europa e di non confronto sui semestri di presidenza è quello di Madame Thatcher. Ma nonostante quel periodo, nelle dichiarazioni fondamentali dell'Europa, il dialogo sociale ha continuato ad essere premessa e sostanza delle modalità di governo europeo. Allora, così su Anna Camusso, vedo molti messaggi sul tabacco, anche viene paragonato i soldi delle lobby del tabacco paragonati a quello delle indrine calabresi, della 'ndrangheta, ma insomma, non so, ma mi sembra un ragionamento normale. Cioè, il tabacco è legale e lo Stato ci carica sopra il 70% d'accise e ci guadagniamo noi tutti. Dichiariamolo illegale e nessuno parlerà più di investimenti. Ma se un settore è legale, io parlo di tutti i settori: l'aerospazio difesa, la produzione di carri armati, di missili, di elicotteri, di siluri, in cui l'Italia è leader, è un settore industriale completamente legale. Okay, non è che adesso parliamo solo di quello che è eticamente corretto, non mi sembra tra l'altro aria. A me basterebbe che qualcuno investisse su settori legali in questo paese. Comunque, veniamo alle cose un po' più serie, a mio avviso, perché... Allora, da dove parto oggi? Sì, potrebbe, lo so già che volete che parli di quanto ha scoperto la CGIA di Mestre nel fine settimana, che praticamente il 30% dei certificati medici dei lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, viene presentato di lunedì. O la cosa ancora più singolare è che al sud, nonostante il tempo sia di solito migliore, l'inverno meno rigido, meno influenze, eppure in Calabria ci si ammala in media 34 giorni l'anno nel settore pubblico e 42 nel settore privato, che sono molto molto inferiori a quanto non ci si ammali nel nord-est. Evidentemente ci sono anticorpi più forti. 16 giorni in Emilia-Romagna, 16 giorni in Veneto, 15 giorni in Trentino-Alto Adige. Forse l'aria di montagna fa bene, l'aria di mare fa male. Forse non c'è abbastanza iodio in Calabria. Oh, sono tutti dati, inutile poi che scriviate, ecco, che lei diventa leghista. Sono tutti dati, cioè, ci si ammala al doppio in Calabria rispetto che in Trentino, sia nel settore pubblico che nel settore privato. No, ma vorrei raccontare due cose brevemente, oggi non ce la facciamo fare tutto, però... sì, anch'io ho sentito, ho detto Madame Thatcher, forse voleva dire Margaret Thatcher, ma Madame Thatcher era Mrs. Thatcher. Però riferito alla Camusso, no, vorrei capire che a cosa serve la provincia di Monza e la provincia di Cremona, perché ci sono due sedi appena inaugurate, ma non si sa ancora cosa metterci dentro. La prima, quella della provincia di Monza, è stata inaugurata sulle ceneri dell'ex caserma 4 novembre, la seconda invece nel convento Santa Monica vicino al centro storico. Costo totale delle due sedi 28 milioni di euro, 24 milioni in realtà per quella di Monza e 4 per quella di Cremona. Investimenti corposi, peccato che si fa la riforma degli enti intermedi e quindi la provincia di Monza è solo un punto di domanda: che cosa succederà dopo il 12 ottobre, data delle elezioni provinciali? Voteranno solo i consiglieri comunali e i sindaci del territorio, non i cittadini, dopo il 14 ottobre, quando in regione Lombardia prenderanno via le operazioni per definire le competenze delle nuove province. Pensate che a Monza la nuova sede, secondo me è stato un errore fare già la provincia di Monza in generale, ma vabbè, la nuova sede ha 25.000 metri quadrati di superficie per 268 dipendenti, che vuol dire che ogni dipendente in media ha 90 metri quadrati. Cioè, 90 metri quadrati è un appartamento in cui molte famiglie italiane vivono. A Cremona invece l'antico convento è stato acquistato direttamente dall'Agenzia del Demanio. Nel 2007 hanno fatto i lavori, hanno recuperato 1.100 metri quadrati di superficie, ne sono disponibili 750 di metri quadrati. È un immobile immenso. Durante i lavori sono spuntati alcuni affreschi ancora da indagare e anche reperti archeologici. I soldi spesi adesso potrebbero invogliare eventuali acquirenti se dovesse essere ceduta. Oh, vi ricordate lo scontro che abbiamo avuto con Ardizzone, il presidente dei deputatini siciliani dell'Assemblea regionale siciliana? Oh, hanno trovato l'accordo dal 1 gennaio 2015 con le quattro sigle sindacali, erano contrari i coadiutori parlamentari. Allora, l'intesa prevede tetti alle retribuzioni delle varie figure professionali, così come previsto per i dirigenti, cioè il tetto a 240.000 euro, ma gli stipendi dei dipendenti restano comunque superiori agli stipendi del Senato, anche se non avranno indennità fisse e variabili aggiuntive e neppure incentivi di produttività. Il risparmio dovrebbe essere di 3 milioni di euro l'anno, di euro in tutto, 1 milione di euro l'anno, sono circa 200.000 euro in più rispetto all'automatica applicazione dei parametri del Senato, e questo va bene. Quindi l'assistente parlamentare della regione Sicilia, la qualifica più bassa, con 25 anni di anzianità, che adesso guadagna 120.000 euro all'anno, avrà un taglio su questo. quello con 40 anni di servizio che è a 140.000 euro, il tetto massimo per tutti sarebbe 100.000, poco meno di quanto guadagna un questore. Per i coadiutori parlamentari, i compensi da 140.000 euro con 25 anni di servizio e 170.000 euro fine carriera. Anche qui il tetto, però domani, oggi non ce la facciamo veramente, domani vorrei raccontare anche come si fa a risparmiare nella sanità, perché è sbagliato tagliare la sanità in maniera orizzontale, però ci sono ospedali in che hanno spese ingiustificate, ecco perché i costi standard vanno introdotti. Insomma, il cardarelle di Napoli non può essere più pulito del Sant'Orsola di Bologna, lo dico, cioè, sicuro di questo. Perché i costi della pulizia dell'ospedale napoletano sono il doppio rispetto a quelli dell'ospedale emiliano. Pensate, 17.500 euro spendono al cardarelle di Napoli per un posto letto come pulizia, contro i 6.500 del Sant'Orsola. La media in Italia è di 7.900 euro. Allora, con questi costi, Cardarelli dovrebbe essere una clinica svizzera, e non mi sembra proprio. Aldelellis di Catanzaro devono avere introdotto un nuovo sistema di consulenza medica al telefono, perché spendono per le bollette telefoniche il triplo degli altri ospedali italiani, 2.700 euro a posto letto contro i 900 euro a posto letto di ospedali italiani. Ma che fanno al Dell'Ellis di Catanzaro col telefono? Tutto, la consulenza, telemedicina. E com'è possibile che tra il Careggi di Firenze e il Niguarda di Milano, a parità di dimensioni, ci sia una spesa 10 volte, una differenza 10 volte quanto spesa per l'elettricità? 6.700 euro al Careggi contro 600 euro al Niguarda a posto letto, cioè, ma che cosa usa? Che lampadine usano al Careggio di Firenze? Allora, voi capite benissimo che un conto è tagliare le spese per macchinari, per il personale medico e quant'altro. Altra cosa è avere delle spese ingiustificate, appunto 10 volte in più per l'elettricità, il triplo di bolletta telefonica, le spese. Lì dietro c'è di tutto, lo sappiamo, ci sono le cooperative appaltanti, i lavori di pulizia, partono anche delle volte le mazzette, e bene che vada c'è una cattiva gestione. Io chiederei però di rimuovere anche il direttore delle ASL di questi ospedali, oltre che il direttore degli ospedali. Cioè, nel senso, se tu sei fuori da ogni parametro, o ci spieghi perché a Careggi spendi 6.700 euro di bolletta elettrica per ogni posto letto contro i 600 euro del Niguarda, con una media nazionale che è intorno agli 800-900 euro, oppure ciao, vai a lavorare nel privato, vediamo se ti pigliano, visto come sa gestire il pubblico. Vabbè, torneremo sul tema domani. Adesso il metodo, la pubblicità, e poi iniziamo con gli investimenti in Italia, l'andamento dei salari, delle retribuzioni, c'è il nuovo rapporto oggi, e la vicenda TFR. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. minuti. Allora, dicevamo di chi investe in questo paese, e la notizia è arrivata nel fine settimana. Da qui al 2018 la British American Tobacco, BAT, che 10 anni fa acquistò in Italia l'ente tabacchi italiani, ve lo ricordate, per 2 miliardi e 300 milioni, investirà in Italia un totale di 1 miliardo e quindi 300 posti di lavoro. Siamo in collegamento col vicepresidente Giovanni Carucci, buonasera. Buonasera dottor Barisoni, a lei e agli ascoltatori. Allora, noi siamo ecumenici in tutto, abbiamo avuto a ospite il numero 1 di Philip Morris, adesso voi che siete concorrenti, non ci mancherebbe, siete presenti in 180 mercati, oltre sì. 200 marchi, tra i più famosi del mercato del tabacco, una quota del 13% del mercato mondiale, 57.000 dipendenti. Come è diviso questo miliardo di investimenti in Italia e a che cosa servirà? Beh, intanto credo che sia opportuno dire una cosa, cioè che intanto abbiamo voluto dare visibilità a questo piano, perché credo che sia anche importante divulgare queste notizie e dare fiducia, Noi crediamo nell'Italia e quindi abbiamo deciso di assegnare ad una importante porzione della business community un ruolo di partnership per il nostro cammino futuro, quindi è un piano da oltre 1 miliardo di euro in 5 anni che si articola in vari settori e ricade su varie parti del territorio italiano. La parte principale certamente riguarda i macchinari, è un impegno consistente che consolida anche un percorso avviato da vario tempo che si intensifica. Qui stiamo parlando di oltre 600 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Credo che la notizia più importante sia che l'Italia diventerà il principale fornitore del gruppo BAT a livello mondiale, quindi per tutti i nostri stabilimenti a livello globale, doppiando in termini di ammontare la Germania. Per cui, quindi, sì, prego. Sì, e in questo ambito naturalmente noi facciamo leva sulle eccellenze che sussistono in Italia in questo settore, e parliamo ovviamente di aziende estremamente importanti che sono locate principalmente nella zona, nell'Emilia, nella zona attorno a Bologna, in Veneto e in Umbria. Ecco, questa è la parte di investimento, lo dico perché, ripeto, uno la può pensare come vuole sul tabacco, ci mancherebbe, però è un settore legale dove pagate il 70% più o meno di tasse sul prodotto, per cui parliamo di investimenti. Dicevo, circa 650 milioni per diverse aziende tra Emilia Romagna, Umbria e Veneto, sono macchinari? Aggiungo anche un altro aspetto, perché è importante che anche gli ascoltatori sappiano, non è solo legale, è un'industria che garantisce all'intera filiera oltre 200.000 occupati nel suo complesso e garantisce allo Stato oltre 13 miliardi di euro di entrate, quindi rappresenta una fetta importante per l'economia italiana. Siamo d'accordo, dopodiché ripeto, se uno veramente vuole essere coerente deve dichiarare che è illegale il tabacco, allora lo Stato non ci ricava più niente e non parleremo più del settore, ma finché è addirittura tassato in quel modo, noi andiamo avanti. Dicevo, aziende specializzate in questo vuol dire che l'Italia ha un suo punto di forza nelle aziende che lavorano il tabacco? E nel l'Italia che vuol dire lavorano il tabacco, ma anche il packaging, quindi diciamo il confezionamento. Sì, assolutamente, l'Italia rappresenta una punta di eccellenza a livello globale, naturalmente noi stiamo intensificando questo rapporto, nei prossimi anni noi prevediamo di procedere ad un importante ammodernamento e rinnovo del nostro parco impiantistico a livello globale. Occorre anche tener conto che la nuova regolamentazione, parlo per esempio della nuova direttiva europea tabacco che introdurrà novità nel campo dell'introduzione dei pictorials e della regolamentazione del prodotto, imporrà anche delle significative modifiche impiantistiche, quindi anche su questo fronte dovremo procedere ad una forte revisione del layout complessivo. E poi ci sarà un'altra parte dell'investimento destinata a che cosa invece? Perché ho visto che c'è anche la Campania coinvolta. Dunque, noi nell'ambito del nostro piano investimenti dedichiamo un importante capitolo alla filiera agricola, che anche in questo caso rappresenta un elemento di punta dell'economia italiana. Forse non tutti sanno che l'Italia è il principale paese produttore di tabacco in foglia a livello europeo, anche dopo la cessazione dei contributi comunitari, quindi è una filiera estremamente importante che occupa circa 60.000 persone nel suo insieme ed è una filiera che evidentemente si regge su un assunto fondamentale, cioè che le grandi aziende del tabacco continuino a comprare tabacco italiano anche in un contesto competitivo estremamente difficile, perché il tabacco cresce dovunque nelle zone temperate e tropicali nel mondo e non si fa fatica a immaginare che ci sono aree del mondo dove la produzione avviene. Vorrei capire una cosa però, allora c'è chi mi dice sì, poi lo Stato spende per curare le malattie da tabacco, è vero, come spende per curare altre malattie dovute alla cattiva alimentazione e al beveraggio o anche la ludopatia, eppure autorizza le slot machine. Cioè decidiamo, se immaginiamo uno Stato etico, che a me fa rabbrividire, perché io sono da questo punto di vista un libertario, non un libertino ma un libertario, è uno Stato etico che ti dica che cosa devi fare come in certi stati mormoni degli Stati Uniti, va bene, però facciamo uno Stato etico, poi chiudiamo certi impianti e va bene. E invece vorrei capire una cosa, perché voi quando siete arrivati, avete acquistato l'ente tabacchi, avete chiuso molte manifatture e comunque di tabacco. Cioè adesso sembrate quasi ripensarci, perché avete firmato con il Ministero delle Politiche Agricole un accordo che prevede l'acquisto di 4.500 tonnellate di tabacco l'anno. Investite 100 milioni a sostegno della filiera di produzione di tabacco, in particolar modo in Campania. E perché allora abbiamo abbandonato alcune aree del paese in cui c'era una storia che andava dall'Ottocento? Penso alla Toscana e al Veneto, se non ricordo male, nella zona del Rovigiotto era, dove c'erano importanti, comunque della bassa veronese, basso Veneto, c'era un'importante cultura del tabacco. Prego. Dunque, intanto in Veneto continua a esistere questa cultura e coltura del tabacco. Il Veneto rimane ancora di gran lunga la regione che fornisce i maggiori quantitativi, e noi siamo grandi acquirenti di quest'area, anzi ci tengo a dire che forse siamo coloro che, insieme ovviamente anche ai nostri competitors, sostengono in pieno questa filiera. È una filiera che certamente ha subito alcuni ridimensionamenti, specialmente quando c'è stata appunto la cancellazione dei contributi comunitari ad alcuni coltivatori. Probabilmente è apparso più conveniente chiudere le attività piuttosto che proseguirle, ma il grosso è ancora in essere e rappresenta ancora un punto importante dell'agricoltura italiana. Poi BAT decise di comprare l'ETI nel 2003 perché ha ritenuto e ritiene tuttora l'Italia un mercato strategico per il nostro settore. Le chiusure hanno riguardato gli stabilimenti produttivi, anche perché al momento dell'acquisizione dell'ETI abbiamo trovato un numero di stabilimenti che era pari a tutti gli stabilimenti che avevamo nel resto d'Europa, e quindi era necessario procedere ad una razionalizzazione produttiva. Ma io tengo a dire che oggi la catena del valore anche in questo settore non risiede tanto nella produzione quanto nelle altre parti del processo produttivo. Accennavo prima la fase della trasformazione, cioè i macchinari, la fase primaria, cioè l'agricoltura, e direi anche più importante la fase successiva. Noi in Italia abbiamo un network importante di piccole e medie imprese che ci supportano in tutte le attività di creazione del valore dei brand. Quindi 1 miliardo di euro in questi due diversi aspetti, 650 milioni su macchinari che trattano tabacco e packaging, 100 milioni sulla filiera. Mi dico un'ultima cosa, potete immaginare di investire ancora di più soprattutto sulla parte che riguarda la filiera agricola? Guardi, sulla filiera agricola naturalmente io ci tengo a dire questo: noi siamo l'unica grande multinazionale che ha firmato un accordo di programma che ha un valore pluriennale, e questo è importante ancora di più dei quantitativi, perché consente alle aziende di pianificare in una logica di medio termine e quindi garantire una maggiore sostenibilità. Tuttavia nell'accordo di programma abbiamo stabilito che ovviamente ci sono spazi per ulteriori incrementi, quindi la risposta è che stiamo valutando. Beh, speriamo, grazie al vicepresidente della BAT, appunto, Giovanni Carucci. Arriveremo anche alle retribuzioni. Iniziamo però adesso con la borsa. Dicevo, giornata non di quelle memorabili. Alla fine peggiora un po' l'indice di Piazza Affari, meno 0,40%, Parigi più 0,1%, Francoforte più 0,1%, Londra più 0,40%, l'America meno 0,24%. Andiamo sui titoli: CNH Industrial più 3,90%, Moncler più 3,25%, Ferragamo più 2,60%, Hughes più 1,30%, Tod's più 1,1%, Pop Milano più 0,80% come Luxottica. Fronte opposto: World Duty Free meno 2,30%, Unipolsai meno 2%, Telecom Italia perde 1,5% come Enel, Prismian perde l'1,1% come Finmeccanica e Snam, l'1% lo perde Eni, ma anche Terna. E allora, Michele, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Olla, mamma mia, mal di gola, eh? Sì. Mi sembra Grimilde oggi. Allora, Moncler da un lato, che era la regina di Biancaneve per essere precisi, Moncler da un lato e CNH Industrial. Prego, onore. Moncler si è risvegliata grazie a un report positivo di Bank of America, ma soprattutto oggi sono andate bene tutte le azioni della moda e del lusso, che invece ricordiamo erano state deboli nelle scorse settimane. E per quanto riguarda CNH, la società ha confermato che sta consolidando la propria posizione in Belgio, e quindi questo ha fatto sì che sono arrivati una serie di ordini in acquisto. E quindi sia su CNH che su chiaramente anche Moncler. Ferragamo, tu dicevi già nel lusso più 2,60, e ci troviamo anche Tod's e in parte Yux. World Duty Free meno 2,30% invece, e debole oggi anche Telecom. World Duty Free, ricordiamo che venerdì ha perso il 10%, sì, e oggi continua ad andare giù. Al mercato non piace proprio il fatto che la società ha dichiarato che la redditività in Spagna sarà inferiore alle attese, quindi il mercato la penalizza. Telecom era salita, adesso invece un po' di prese di beneficio, mentre gli investitori si interrogano su quello che succederà nell'azionariato e sulle mosse della società in Sud America, sia in Argentina sia in Brasile. Esatto, per quello che riguarda Telecom, faccio notare oggi altri titoli anche che si muovono in maniera diversa rispetto alla media. È nel meno 1,47, Prysmian meno 1,1%, deboli oggi tutti gli energetici, Eni perde l'1%, non ci sono enormi spunti in borsa, lo dico a tutti quelli che stanno scrivendo. Le banche tengono su tutto il listino, c'è Carige che aveva avuto un rialzo superiore alla media, forse, Leonora? Andava bene soprattutto perché ha annunciato invece che il personale verrà ridotto di 600 persone entro il 2018. Queste sono notizie che piacciono poco ai dipendenti, ma ovviamente invece piacciono alla borsa. Verranno assunte 150 persone, ma il tutto comporterà un risparmio per l'istituto di 38 milioni a regime all'anno. Allora, vengo accusato dagli ascoltatori di essere uno schiavista perché ti faccio un negriero, ti faccio parlare senza voce. No, in realtà c'è una disponibilità, uno vuole può non farlo. No, dico, ma uno può anche non farlo il collegamento, basta avvisare. In realtà mi sembra che al di là della voce un po' rauca si capisca tutto. Ansaldi e Sogefi. Sì, Astaldi. Astaldi oggi si è comportata bene in borsa, si è messa in evidenza sin dalle prime battute, beneficiando delle indiscrezioni di stampa in base alle quali la società sarebbe per vendere un pacchetto di concessioni. L'operazione, che dovrebbe avvenire entro fine anno o a inizio 2015, andrebbe ad abbattere il debito, e quindi questa ovviamente la notizia positiva. Per quanto riguarda Salini in pregilo, invece la società ha annunciato che ha iniziato il piano di buyback, e questo ha dato ovviamente una serie di ordini in acquisto che ha riportato i titoli al di sopra dei minimi storici toccati proprio nei giorni scorsi. E infatti Astaldi, appunto, ha chiuso a 6,08 più 3,40%, come ti ricordavi, Sogefi più 8,12, Salini più 4, Salini. Per quanto riguarda Sogefi invece è una bella storia anche questa. Stavo arrivando lì. Va bene, vai Eleonora, vai. In questo caso la società ha annunciato un accordo con Peugeot per fornire l'equipaggiamento della 208 Hybrid. Esatto, e tra i titoli che salgono, oltre a Sogefi più 8,12, Salini più 4,45, c'è anche Sacom più 11,30 e Saras più 8,70. Fronte opposto invece KR Energy meno 6,50%, Leone Film Group meno 6%, IMSI meno 4%, HighRail meno 3,54%. Leonora Micheli, arrivederci. Salve. Adesso arriveremo nella seconda ora del programma al tema TFR, il governo metterà la fiducia o non la fiducia sul Jobs Act, però nel frattempo, come oggi ha scoperto chi ha letto Sole 24 Ore, è arrivata l'indagine, che è un'indagine che ha una scadenza nel corso dell'anno, un'indagine su 420.000 profili del settore privato, quella realizzata da ODM Consulting. È il 18° rapporto, tra l'altro, sulle retribuzioni in Italia, e devo dire che qualche, pur nel panorama di estrema precarietà e criticità che raccontiamo, qualche elemento positivo c'è sugli stipendi. Dottoressa Simonetta Cavasin, che è General Manager di ODM Consulting, buonasera. Buonasera a tutti. Poi dopo, adesso le faccio dare un'anticipazione, poi resti con noi che dopo il GR24 andremo avanti. Dicevo, qualche buona notizia qual è? Allora, noi stiamo rilevando, come un po' avevamo anche anticipato col rapporto precedente, un trend di crescita delle retribuzioni, con tutte le cautele, però rispetto appunto ai livelli retributivi e al confronto tra 2013 e la tendenza 2014, abbiamo sia per dirigenti, quadri, impiegati e operai una crescita in termini percentuali. Quindi diciamo l'1,7% degli operai, l'1,3% per i dirigenti, lo 0,7% in più per gli impiegati e lo 0,1% per i quadri. Ora, due precisazioni perché non vorrei passare il resto del programma a rispondere agli sms di insulti. A, cioè non più del solito, diciamo. A, sono medie. B, voi come calcolate i contratti nazionali e gli integrativi? Allora, noi consideriamo all'interno dell'analisi gli impatti, però andiamo poi a vedere tutte le azioni di politica retributiva che le aziende fanno sulle diverse categorie. E quindi è un'analisi che noi facciamo portando sia le retribuzioni individuali che tutte, registrando tutte le politiche retributive che le aziende realizzano nel corso dell'anno. Quindi è un database gestionale. Allora, su questo attenzione, che quando parliamo di operai parliamo di una retribuzione lorda totale annua lorda di 23.800 euro in media, per i quadri di 50, per gli impiegati di 28.700, per i quadri di 54.000, per i dirigenti di 112.000 come retribuzione totale annua lorda. Focus Economia. Otto minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento sul rapporto che oggi pubblicato anche dal Sole 24 Ore di ODM Consulting sugli stipendi degli italiani. Attenzione, l'indagine riguarda circa 420.000 profili del settore privato. Vedo già molti sms, abbiamo detto che in media, in questo caso le medie possono essere ingannevoli. Vi è un aumento in quella che è la retribuzione totale annua lorda dell'1,7% per gli operai, la media è 23.884 euro lordi, dello 0,1 per i quadri, anzi dello 0,7 per gli impiegati, la media è 28.757 euro lordi, dello 0,1% per i quadri la media è 54.233 euro lordi ed è l'1,3% per i dirigenti che in media guadagnano 112.340 euro lordi. Dicevo con il General Manager di ODM Consulting Simonetta Cavasin, le differenze tra settori ma anche dimensioni di impresa. Allora, per quanto riguarda le dimensioni di impresa, abbiamo una maggiore competitività della grande impresa sì, rispetto alla media e rispetto alla piccola. Per darvi un ordine di grandezza, partiamo dai quadri: in una piccola impresa la retribuzione totale annua lorda è di circa 51.000 euro, per la grande impresa di circa 55.000 euro, e questo si riflette in tutte le dimensioni dirigenti, quadri, impiegati e operai. Per quanto riguarda le differenze territoriali, settoriali anche, oltre che settoriali, per quanto riguarda le differenze settoriali, diciamo che credito assicurazioni tipicamente rimangono diciamo, al primo posto della classifica, per poi seguire con nell'industria e il settore del servizi in modo un po' a macchia di leopardo a seconda delle figure professionali. Allora, quindi resta nei settori credito e assicurazioni e poi tra l'altro l'industria per gli impiegati e anche per gli operai. Ultimo aspetto, purtroppo non c'è una novità qui, mentre è importante quanto le ricordava tra le grandi imprese e le piccole imprese, La differenza per genere, donne e uomini, prego. Sì, qui la retribuzione totale lorda di una donna è pari a circa, parliamo di dirigenti, circa 105.000 euro l'anno, che è meno dell'8,8% rispetto a quella dei pari livello maschi. C'è anche qui un lieve recupero di competitività, però decisamente sia per dirigenti, quadri, impiegati, operai, il percorso è ancora lungo. È ancora lungo. Lei citava anche la parte territoriale, andiamo sulla parte territoriale comunque. Sulla parte territoriale, ancora una volta, diciamo, chi guida è il nord-ovest, per poi seguire il nord-est, e purtroppo si mantiene ancora come fanalino di coda il sud e le isole. E questa è una tendenza che noi abbiamo rilevato, che stiamo ormai rilevando da anni, da quando appunto elaboriamo il rapporto. Allora, per quello che riguarda, poi vedo molti messaggi, non possiamo entrare nel dettaglio, lei già citava il fatto che al sud vi sia stato un incremento più basso, al nord-est più alto. Mi dica in conclusione l'ultima cosa, qual è il dato che più l'ha sorpresa, visto che il rapporto è il 18° sulle retribuzioni in Italia? Allora, direi che il dato che più ci ha sorpreso, allora, da una parte non sorpreso, nel senso che un po' di recupero di redditività, di diciamo competitività da parte delle donne, questo è un dato che ci conforta. Dall'altra, il dato che mi sorprende è una mancanza di competitività ancora rispetto alla retribuzione variabile. Ecco, quando parliamo di retribuzione totale annua lorda, come sottolineava lei, mettiamo insieme la retribuzione fissa e la retribuzione variabile. Non sta crescendo la competitività in termini di retribuzione variabile. No, mi scusi, cosa vuol dire questo? Non ho capito. Vuol dire che ad esempio quando parliamo di un dirigente parliamo di 112.000 euro, 100.000 euro sono di retribuzione fissa e il resto è di retribuzione variabile che sono stati percepiti, quindi è una retribuzione totale annua lorda che mette insieme i livelli di retribuzione fissa più i livelli di retribuzione variabile che sono stati presi in funzione del raggiungimento degli obiettivi. Mi scusi, giustamente chiedono alcuni ascoltatori, non è che in questi calcoli avete messo anche l'effetto degli 80 euro della quota? Che no, ecco, beh. Per il momento l'abbiamo appunto specificato perché è un tema assolutamente di rilievo, non abbiamo inserito perché appunto non si vedono ancora i dati retributivi che sono a nostra disposizione, lo faremo con il prossimo rapporto. Infatti voi vi siete fermati al primo semestre del 2014. Sì. E grazie a Simonetta Cavasini, appunto, grazie General Manager di ODM Consulting. Wanting more from life than he could give. Allora, il Jobs Act, mentre cerchiamo di capire se il governo metterà o no la fiducia, il ministro Martina, oggi intervenuto da Simone Spezia, effetto giorno. C'è un rischio di uno strappo nel PD? Mi auguro di no, si può trovare un punto di sintesi. Mi auguro che ci siano le condizioni per lavorare bene unitariamente. Mi sono sforzato nel mio in tutti questi giorni di fare esattamente questo, per cui di chiarire bene gli obiettivi e condividere le finalità della delega. Considero la delega lavoro una grande opportunità per riformare il mercato del lavoro. Adesso avremo dei passaggi nelle prossime giornate che definiranno il quadro preciso delle cose, ma sono per lavorare in maniera unitaria e da questo punto di vista continuo a vedere le opportunità che ci sono in questo impegno, non i rischi. Però la fiducia potrebbe generare uno strappo. Ma mi auguro proprio di no. Si augura di no, però insomma da quel che leggiamo se vuole farmi dire che no glielo voglio fare, se vuole glielo dico, ma no. Allora penso semplicemente che nel lavoro di queste giornate si possa trovare un punto di sintesi anche su questo. Io non ho capito se poi Martina dicesse mi auguro di no al voto di fiducia o che il voto di fiducia generi uno strappo. Comunque, insomma, Martina tra l'altro non appartiene ai renziani, quindi era particolarmente importante il suo punto di vista. Susanna Camusso, abbiamo già ascoltato nella prima parte del programma la definizione di Renzi come Thatcher. Non ho capito ancora perché l'abbia chiamata Madame Thatcher e non Miss Thatcher. Comunque, ha detto però attenzione, siamo a metà del semestre europeo guida italiana, scusatemi, e non c'è stato ancora accenno di dialogo sociale da parte del Presidente del Consiglio. E poi ha aggiunto Susanna Camusso, l'incontro di domani mattina alle 8 i sindacati incontrano Renzi, poi alle 9 c'è anche la Confindustria. Mi viene in mente una canzone, Un'ora sola ti vorrei. Mi viene in mente un titolo di una canzone che è Un'ora sola ti vorrei. E poi noto che c'è coscienza nel governo, che i lavoratori si alzano presto e vanno a lavorare presto e le direzioni seguono più tardi. Un'ora sola, com'è che facevo un'ora sola? Ti vorrei un'ora sola o un'ora sola? Perché bisogna capire come è andato male l'incontro. La battuta sulla direzione l'ho capita, dice, perché prima incontrano i sindacati, poi i proprietari, cioè gli industriali, e va buon. Guido Gentili, mi sembra che insomma al di là dell'ora sola o l'ora sola e di chi arrivi prima, uno ti potrebbe rispondere che molti imprenditori arrivano in fabbrica e in ufficio assieme agli operai anche prima, ma non mi sembra questo il tema, obiettivamente, se vogliamo giocare ancora con i vecchi schemi. La fiducia la mettono al governo, Guido? Guarda, non è assolutamente incerto questo punto. In questo momento, cioè alle 18:20 della sera, non c'è proprio alcuna certezza né in un senso né nell'altro. Siamo sul filo del rasoio su questa decisione, perché è una decisione politicamente dirimente e importante, e quindi è una situazione molto molto difficile. E 19 minuti, ultima parte di Focus Economia. Oggi siamo in salsa brasiliana. Guardate che si va al ballottaggio. Comunque va bene. Allora, Guido Gentili, dicevamo sulla fiducia, ancora la situazione è assolutamente incerta. Domani che cosa potrebbe uscire dal pacchetto TFR? Anche perché penso che dovrà chiarire il governo alle imprese, ai sindacati, il taglio dell'IRAP del 10%. Rispetto a quello già concesso nel decreto IRPEF, che però ha dispiegato solo per metà i suoi effetti nel 2014, sarà attivo solo nel 2015. Guido? Beh, per il governo è un appuntamento importante domani, perché deve chiarire tante cose. Quello che dicevi tu prima sul TFR, e capire che meccanismo può mettere in campo, stante la valutazione molto negativa che è stata fatta dagli imprenditori. Il governo probabilmente controreplicherà, diciamo sarà un meccanismo su base volontaria, quindi in base alle scelte che faranno i lavoratori, e a costo zero per le imprese. Ecco, in quel a costo zero per le imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, che come sappiamo sono l'ossatura del nostro sistema produttivo, si dovrà approfondire e discutere. Questo è un punto decisivo, questo, su se è a costo zero o non è a costo zero. E poi c'è il discorso sullo sfondo della legge di stabilità, dove nel frattempo ci siamo persi per strada la spending review, la revisione della spesa, che praticamente non abbiamo più notizie, e comunque le notizie che filtrano sono di una manovra molto minore rispetto alle previsioni che erano state fatte. Di quanto? Il discorso, parliamo di, adesso stiamo parlando di tagli di 3-5 miliardi, insomma, no? Quindi rispetto a quello che si diceva i 15, anche sono state fatte anche valutazioni superiori, quindi questa è la situazione. E c'è il discorso da chiarire, altro punto dirimente, sulla riduzione della manovra per il cuneo fiscale, l'IRAP, quindi quanto verrà abbassata la tassa per il lavoro su questo punto. Sono tutte cose, però se ragioniamo in un quadro di vasi comunicanti, perché il discorso del TFR si lega a quello dell'IRAP, e a sua volta quello dell'IRAP TFR si spiegano politicamente, certo, anche le decisioni che verranno prese sul costo del lavoro, in particolare sull'articolo 18. Sì, perché c'è anche l'ipotesi di dedurre dall'imponibile IRAP il costo del lavoro, 2 miliardi di euro di valore. Poi ci sono anche i bonus sul settore energia e ristrutturazioni, che dovremo capire come e se verranno riconfermati nello stesso modo. Tanta carne al fuoco. Venendo adesso all'analisi più politica, se vogliamo, che però riguarda le misure di carattere economico, la sensazione che tu hai avuto è che il governo abbia frenato sul TFR per l'opposizione di sindacati e imprese, o perché ha capito che insomma si stava avventurando in terra incognita se prima non parli con chi rappresenta i lavoratori, cioè i destinatari del trattamento di fine rapporto, e le imprese, quelle che lo trattengono, le piccole sotto i 50 lo usano come circolante, quelle più grandi invece, in quelle più grandi va nei fondi pensione, va all'INPS e nei fondi pensione integrativi. Guido. Sì, io credo che le terre incognite sono molte, e credo che alla fine, da un punto di vista politico, il governo ha di fronte varie opzioni e dovrà scegliere, per esempio, se concede qualche cosa di più, rispondendo alla domanda, alla richiesta di più coraggio che ha fatto l'altro giorno la Confindustria e il presidente Squinzi per quanto riguarda l'articolo 18, probabilmente magari potrà concedersi qualche cosa in più lui, il governo, rispetto sul tema del TFR, rispetto agli elettori che dicono oggi un no secco. Quindi per questo dico che sono parti comunicanti, non solo in termini di flussi economici, ma in termini di scambio politico che avviene, e ovviamente anche all'interno del Partito Democratico, dove qui l'argomento è squisitamente politico, il discorso della delega lo dimostra, e lo dimostra la possibilità di andare o no alla richiesta di fiducia, che ricordiamolo poi sarebbe una fiducia comunque in un ramo del Parlamento, non è nulla, diciamo, non sarebbe nulla di decisivo sul piano pratico. No, però sul piano politico vorrebbe dire, esatto, andare a muro contro muro con la minoranza del PD. Come già con te ipotizzavamo in questo punto, diciamo, politico sui temi di economia che facciamo all'inizio di quasi ogni settimana, la settimana scorsa, siamo sti facili profeti nel dire che probabilmente si stavano saldando le istanze della minoranza del PD con quelle del sindacato, e infatti la forza, diciamo, è stata poi questa. Vorrei capire, hai ragione, vedo molti sms sugli altri temi aperti, in questo momento l'obiettivo, lo ripeto, di Renzi è arrivare a mercoledì, quando vi sarà il famoso vertice sul lavoro, quello che era programmato, poi cancellato, poi riprogrammato, poi ricancellato, mo c'è, e lui vorrebbe arrivare con il Jobs Act approvato al Senato. Secondo te ce la farà? Perché questo vorrebbe dire presentarsi all'Europa dicendo: noi abbiamo iniziato un percorso molto serio di riforma del mercato del lavoro. Da questo punto di vista lui è obbligato a fare questa scelta, proprio perché è un appuntamento al quale lui non può mancare, anche se, come ricordavi tu, il vertice è stato derubricato a conferenza, poi si parla di una, diciamo, di una posizione della Germania con la Merkel che non farebbe la conferenza stampa insieme a Renzi, se ne andrebbe prima, insomma, quindi ci sono vari problemi sullo sfondo politici di carattere europeo anche, però Renzi deve fare questa scelta, intendiamoci, sarebbe una scelta importante, però si tratta di capire, primo, ripeto, se mette la fiducia, secondo, cosa scrive dentro questa delega, perché poi se è una delega molto generica, insomma, poi i problemi rimangono lì. Certamente sarebbe, dal punto di vista mediatico, sarebbe un appuntamento importante riuscire a centrarlo con la presentazione dicendo: l'abbiamo fatta, l'abbiamo presentata, l'abbiamo approvata. È solo un ramo del Parlamento, ma è un passo, diciamo così, politico importante. Da qui, diciamo, la valenza, diciamo, politica di questa scelta. Sì, da lì la valenza politica, perché vorrebbe dire appunto sapere di avere dietro un governo, una maggioranza che appoggia le tue riforme. In caso contrario sarebbe obiettivamente il segnale di una debolezza nei confronti del paese. Comunque, non la pensi sulla riforma del mercato del lavoro, che dentro ha tante cose, perché giustamente si faceva notare oggi che c'è anche il salario minimo. Noi ci stiamo concentrando su questo articolo 18, ma la riforma è molto molto più articolata. Da qui poi, Guido, e chiudiamo, superato, vediamo, non ho ancora agenzie sul voto di fiducia, quindi ancora non abbiamo notizie da darvi, e arriveranno nel corso, immagino, dei prossimi GR. Dicevo, da qui, superato lo scoglio del Jobs Act, manca solo la legge di stabilità, la legge finanziaria. Beh, insomma, hai detto nulla. Cioè, nel un dettaglio, che... dai. Quello e l'altro appuntamento, appunto, sono tutti appuntamenti che si legano tra loro e c'è una situazione molto difficile che l'Italia deve percorrere su questo terreno della legge di stabilità, lo sappiamo, e si annuncia un confronto molto complicato in Europa su questo tema, quindi quella che sarà la valutazione della Commissione europea su un paese, la terza economia d'Europa, che come sappiamo ha deciso ancora di rinviare di un anno il pareggio di bilancio, e quindi insomma è una situazione difficile, e direi che visto anche alla luce dei dati di oggi, dove si dice che si prevede che la Grecia avrà nel 2015 una crescita del 2,9% del PIL proprio grazie alle politiche che sono state fatte di austerity, beh, questo insomma è un tema che io terrei in agenda con grande attenzione, perché potrebbero riemergere delle tensioni su questi temi. Vabbè, vediamo se arriverà o no sta fiducia oggi. Noi domani saremo di nuovo in diretta dalle 17 in poi per raccontarvi un'altra giornata economico-finanziaria e soprattutto ragionare, commentare l'incontro domani mattina dalle 8 in poi tra Renzi e i leader sindacali e poi la Confindustria. Grazie all'editorialista del Sole 24 Ore Guido Gentili, da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente. Un nuovo transfer a tavola rotante? Chiama Riello Sistemi, riellosistemi.it. Vi ha presentato Focus Economia.